Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Negli anni 80 su Italia 1 va in onda un programma che diventa storico, diventa un classico della comicità italiana, Drive In, un programma che peraltro ha lanciato molti comici, da Carlo Pistarino a Enzo Braschi a Giorgio Faletti. È un programma che era presentato, se così si può dire, anche se era una conduzione più che anomala, da Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, con molti personaggi che in qualche modo hanno raccolto il testimone della comicità da un altro programma che era della Rai, che era Non Stop, a condire il tutto molte belle ragazze vestite con poco, scollature, insomma era da un certo punto di vista l'inizio della TV berlusconiana, che mostrava corpi femminili insomma senza nascondere centimetri. E all'interno di Drive In c'era uno spazio riservato a un prodotto televisivo inglese, era una striscia di comiche il cui mattatore è stato un personaggio di cui oggi noi raccontiamo la storia, un uomo che era capace di muoversi come i divi del cinema muto, ma che in realtà ha reso più moderna la comicità, diciamo, delle comiche, no? Ha aggiunto quel tocco di pruderie con doppi sensi, allusioni sessuali, sguardi complici che magari si insinuavano nelle scollature femminili. È un uomo che in Inghilterra è considerato ancora oggi il più grande comico della storia della televisione, un uomo che, come spesso accade alle grandi maschere della risata, è stato in realtà una persona sola, riservata, è stato esattamente il contrario di quello che appariva nei suoi programmi. Stiamo parlando di Benny Hill. 21 gennaio 1924, Southampton, quindi coste meridionali dell'Inghilterra, nasce Alfred Hawthorne Hill, questo è il suo vero nome. Southampton è il principale porto di tutto il Regno Unito, è una città molto movimentata, piena di marinai, e come ogni porto di mare c'è una economia molto particolare, insomma c'è questo continuo via vai di uomini e c'è molta prostituzione, perché il marinaio, dopo magari mesi passati in giro per il mare, insomma, ha bisogno di essere ricambiato affettivamente. Quindi c'è un oggetto di cui all'epoca non si può neanche pronunciare il nome, l'oggetto in questione è il preservativo, e lo sa anche il padre del piccolo Alfie, perché lui ha un negozio che vende attrezzatura medica e l'articolo più richiesto è proprio questo, il famoso condom. Il negozio di mio padre era molto redditizio e molto frequentato. Era uno di quei posti attorno al quale potevi incontrare tutte le prostitute della città. Lo chiamavano il negozio delle gomme. Ma certo mio padre non ha mai venduto pneumatici. Di questo ne sono sicuro. Nella famiglia Hill c'è comunque una passione per il mondo dello spettacolo che travolge il bambino, il piccolo Alfred, ne influenza già l'educazione, perché il padre e il nonno avevano lavorato in un circo come clown. Quindi insomma in famiglia si ride, si scherza, si fanno giochi di parole. Alfred viene portato spesso a teatro a vedere i music hall, quello che noi chiamiamo il varietà. E lui osserva, impara in silenzio, la sua prima ribalta, come spesso accade, è la scuola. Lui intrattiene i compagni con dei monologhi che magari sembrano senza senso, sono farciti di parole inventate, magari, non so, dei neologismi di cui nessuno capisce il significato, che però fanno molto ridere. E però quello che lo affascina di più negli spettacoli teatrali è la bellezza femminile. Ero letteralmente rapito dal mondo dello spettacolo, le luci del palcoscenico, i costumi colorati, e il protagonista era sempre un uomo paffuto con un ridicolo cappello in testa, circondato da bellissime ragazze, e tutti ridevano e applaudivano alle sue battute, e io pensavo, un giorno voglio essere quell'uomo. Poi però arriva la seconda guerra mondiale, sulle coste inglesi arrivano i bombardieri. Southampton, peraltro essendo un porto importante, è un obiettivo sensibile, addirittura viene bombardata la sua scuola, lui deve interrompere gli studi, si mette a lavorare, fa il garzone, poi altri piccoli lavori, però naturalmente non è quello che lui vuole dalla vita. Allora prende una decisione. A 16 anni vende la sua chitarra, abbandona l'idea di fare il musicista e abbandona anche la casa dei genitori. Va a Londra in cerca di fortuna e diventa assistente manager in una piccola compagnia di rivista. Poi una sera il destino gli dà la grande occasione, si offre volontario per sostituire uno degli attori che pare sia fosse rimasto a bere un bicchiere di troppo in un pub, e lui ha successo, capisce che questa può essere la risposta che sta cercando. Però intanto la guerra continua e anche Alfie Hill, perché lui si chiama ancora Alfie Hill, deve fare il suo dovere. Nel 1942 mi arruolai nell'esercito. Facevo il meccanico, l'autista, e a un certo punto finii in Normandia, dove facevo divertire le truppe con piccoli spettacoli comici in compagnia del mio sergente. E qui Alfie Hill incontra Richard Stone, che sarà il suo manager, e questo gli dice chiaramente che appena sarà finita la guerra lo aiuterà a trovare lavoro nel mondo dello spettacolo. È una grande iniezione di fiducia che peraltro lo convince a presentarsi con un nome più musicale. Decide di chiamarsi Benny Hill in onore del comico americano Jack Benny, che lui considera il suo idolo. Il falco e il gabbiano. Le prime esperienze teatrali sono incoraggianti, però Benny Hill non riesce a reggere uno spettacolo da solo, perché quando ci prova non ottiene il successo sperato. Lui ha bisogno di una spalla, deve essere lui la spalla a volte per qualcuno che invece è più intraprendente. Però le sue doti non passano inosservate, comincia a scrivere, diventa un autore, e questo naturalmente aiuta le sue performance sul palco. In sostanza diventa regista di se stesso. Poi il destino gli volta le spalle, la gente smette di divertirsi e quindi lui torna a casa sua a Southampton, si mette a scrivere molti sketch che poi presenterà alla BBC, e lì riuscirà a ottenere un programma. La televisione mi ha dato una grande opportunità, anche perché a differenza del teatro non c'era un pubblico esigente ad applaudirti in sala, e questo mi permetteva di affrontare lo spettacolo più tranquillamente. E Benny Hill ottiene un successo molto rapido, anche perché il suo stile porta una ventata di novità in un mondo in cui il pubblico conosce già la maggior parte dei comici che arrivano alla radio. Lui invece parte direttamente dalla televisione e capisce prima di tutti i tempi, i meccanismi della televisione. Questo gli permette di scrivere degli sketch che ottengono un grandissimo successo. E così nel 1955 va in onda la prima edizione del Benny Hill Show, che però non è quello che ci aspettiamo, cioè non ci sono scenette comiche a ritmo accelerato, quelle che siamo abituate a vedere, e questo è uno show vero e proprio, con dei balletti, con gli ospiti, con i monologhi e con delle scenette in cui lui comincia a interpretare dei personaggi truccandosi, travestendosi in mille modi diversi. È il primo a usare il trucco di comparire in scena con due o tre personaggi tutti interpretati da lui, insomma un antesignano dei comici alla Crozza, tanto per fare un paragone. Ah, siamo sulla classe immensa proprio. Sono anni di grande successo. Benny Hill comincia a essere visto come un uomo fortunato, circondato da bellissime donne, uno che ce l'ha fatta. Però appena le luci si spengono c'è un'altra realtà. Lui non è nella vita reale brillante così come lo è sul palcoscenico. Intanto nei primi anni ha conosciuto una ballerina, Elizabeth English, se ne è innamorato e le ha chiesto di sposarlo, e lei lo ha respinto. E oggi diremmo la classica frase: sei simpatico ma ti vedo più come un amico, che è la pietra tombale su ogni ambizione maschile nei confronti di una donna. Forse perché Benny Hill è vittima della sua stessa bravura, cioè la gente è abituata a vederlo in situazioni così divertenti che poi rimane delusa dalla sua normalità, perché lui non è un uomo brillante, è finalizzato interamente sul lavoro. Tutte le idee comiche lui le trasferisce sui testi che scrive, vede concerti, vede film, legge un libro, ma tutto è indirizzato solo a questo. Nuove aspirazioni per lo sketch successivo. È un uomo immerso totalmente nel suo lavoro, è una abile parlantina, si esprime in quattro lingue diverse, viaggia, però viaggia alla ricerca di fonti di ispirazione e viaggia da solo per non distrarsi. Sentite cosa dice di lui Dave Freeman, che sarebbe il suo più caro amico. He hated responsibility. Odiava qualsiasi responsabilità e penso che l'odiasse perché lo distraeva dal lavoro. Pensava che non avrebbe potuto concentrarsi su uno spettacolo se avesse dovuto pensare a chiamare l'idraulico in casa sua per un tubo rotto. Così preferiva sempre affittare case diverse. E poi non guidava perché riteneva le auto una scocciatura con cui perdere tempo a cercare parcheggio. E questo per lui era una distrazione. Somebody gave you a parking ticket and that would distract him. Ben Hill è diventato ricco, ma non sa cosa farsene del denaro. Vive in modo riservato, austero, ha sempre gli stessi vestiti, due paia di scarpe, ha un atteggiamento sospettoso nei confronti del denaro, forse anche quello che noi chiamiamo un braccino. Rinuncia a affidare i suoi guadagni a un fondo di investimento solo perché il direttore del fondo gli confida di essere appassionato di corse di cavalli e lui si fa un film tutto suo, cioè teme che tutti i suoi soldi vengano sperperati in scommesse a sua insaputa. Insomma, sta entrando, diciamo, in un vortice caratteriale che sta facendo terra bruciata attorno a lui. La sua vita sociale è inesistente a telecamere spente. Lui è un uomo molto solo. Quando non lavoro, guardo molta televisione, scruto la gente comune alla fermata di un autobus, viaggio molto e osservo tutto. Ogni cosa per me è fonte di ispirazione per scrivere una scenetta e trasformare la vita comune in un momento di comicità. You've just arrived, sir. I got a fright. How did you get a fright? With a fright ticket. A fright? Yes. It was a miracle. What was a miracle? When we take off, it was a miracle. You took off from a miracle? United States of a miracle. America. Yeah. Bloody trick. E sentite, no? Questa scenetta sulle pronunce sbagliate è una cosa che gli inglesi adorano sicuramente, perché tutti ti fanno notare appena sbagli una pronuncia. Intanto nel 69 Thames Television gli offre un contratto migliore di quello che aveva la BBC e così, come accade in tutti gli ambienti, diciamo, competitivi, il Ben Hill Show cambia casa. Per lui è un cambio che porta dei miglioramenti, intanto perché non lavora più per la TV di Stato, poi gli porta dei miglioramenti economici per quello che gli può interessare, ma insomma soprattutto lui acquista maggiore libertà, può dare sfogo a tutto dalla sua creatività. Nascono le celebri comiche con le quali verrà conosciuto in tutto il mondo. È un colpo d'ala che lo fa diventare uno dei più famosi intrattenitori comici della terra. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Ben Hill, il comico inglese che dal 54 al 68 sulla BBC ha monopolizzato la comicità col suo Ben Hill Show, del quale lui è stato il mattatore, con canzoni, con balletti, con imitazioni, con i grandi sketch scritti da lui nel suo tempo libero. Anche se in realtà è improprio il concetto di tempo libero, perché lui non va mai in vacanza, tutto è finalizzato alla invenzione di gag comiche per creare nuove situazioni da rappresentare nel suo programma. Ma non è solo il non andare in vacanza, io non vado in vacanza, è che lui è proprio maniaco del suo mestiere, è una dedizione eccessiva che lo isola, che gli nega delle amicizie, gli nega l'amore per una donna che non riesce mai a trovare. Insomma, il risultato è un uomo che nel privato appare solo e noioso. Ma il 19 novembre del 69 la sua carriera prende il volo ancora di più, perché il colpo d'ala è notevole. Dopo anni trascorsi alla BBC parte un nuovo programma, la Thames Television, la TV privata che è meno ingessata della TV statale, come è accaduto anche in Italia. Lascia maggiore libertà ai suoi autori, ai suoi conduttori, e lui comincia a scrivere scenette anche più spudorate, con donne carine, con scollature, che sono sempre al centro dell'attenzione di un gruppetto di uomini, capitanato da lui, da Ben Hill, che in qualche modo, come dire, incarna l'uomo che assiste eccitatissimo al passaggio della bellona di turno. E nel 71 Ben Hill incide una canzone, si chiama Ernie, il garzone del latte più veloce del West. È una canzone che racconta molte delle situazioni che lui stesso ha vissuto quando consegnava il latte a Southampton. La canzone va in vetta alla classifica inglese, diventa popolarissima. Insomma, in pochi anni lui è diventato il re Mida della televisione inglese, guadagna cifre esorbitanti, il suo programma viene venduto in tutti i paesi, lui è conosciuto in tutto il mondo. Il segreto del mio successo sta tutto nell'attenzione che dedico alla preparazione di ogni show. Mi piace curare tutti i dettagli e voglio che ogni cosa sia perfetta. E io osservo sempre tutto perché non si sa mai da dove può arrivare l'ispirazione. I suoi show ormai hanno preso una linea editoriale precisa, la comica muta. Ci sono sempre belle ragazze che lui chiama le Hills Angels, facendo il verso agli Hells Angels americani. E poi ci sono delle presenze fisse nel cast, spalle fedeli di Benny Hill, Shue Epton, Harry McGee, Bob Todd e soprattutto Jackie Wright, l'immancabile vecchietto sulla cui testa pelata lui picchietta più volte quando lo deve rimproverare per aver fatto troppo, diciamo, il cascamorto con una delle ragazze che arrivano sempre in scena. E in realtà all'origine di questa gag c'è una ragione più tecnica. Jackie fumava moltissimo e in uno dei nostri primi spettacoli dal vivo si portò una sigaretta accesa in scena, nascondendola dietro la schiena. Quando mi accorsi che da dietro la testa si vedevano uscire dei riccioli di fumo, per smuovere l'aria cominciai ad agitare la mano sulla sua testa e alla fine la colpì ripetutamente come se fosse un tamburello. Il pubblico si mise a ridere e la cosa piacque così tanto che quella gag venne ripetuta quasi in ogni show successivo. E questo è Jack T. Sax, è una canzone scritta da un sassofonista americano, si chiama Booth Randolph, che diventa la colonna sonora inconfondibile delle comiche di Benny Hill. Immaginate la suonata più svelta, quella musica celeberrima. Lui ha creato un gruppo di lavoro composto da attori, da tecnici, da autori, tutti collaborano con lui molto strettamente, è una famiglia, anzi forse è la sua famiglia, visto che non ne ha una altra, però è un gruppo che gli dà sicurezza, che sostituisce tutti i rapporti con il mondo esterno. E se questo castello di carte dovesse crollare per Ben Hill, ci sarebbero conseguenze devastanti sulla sua vita privata. Il 1974 è l'anno dell'apice, lui ha un bellissimo appartamento in una delle zone più eleganti di Londra, c'è un'intera stanza solo per raccogliere tutti i premi che ha vinto in carriera, ha realizzato il sogno della sua vita, diventare un comico famoso nel mondo, però i tempi cambiano e gli show di Benny Hill dopo il 74 cominciano a non avere lo stesso successo di prima, arrivano accuse di volgarità, di sessismo, di discriminazione razziale, il mondo cambia, lui rimane ancorato al suo stile, però il suo editore comincia a pensarla diversamente. E così nel 1989, dopo troppe pressioni dalla critica, dalle associazioni in difesa di questo, di quel diritto, lo show di Benny Hill non viene più rinnovato. È una decisione improvvisa e potete immaginare qual è lo sconforto del comico inglese, perché lui ha investito tutto su quello show, si sente tradito, abbandonato. Nei due anni successivi cerca di far ripartire questo show, ma non ce la fa e si chiude tra le mura del suo appartamento, ed è un appartamento nel quale nessuno può mettere piede, si isola, è solo, ingrassa e comincia anche a soffrire di cuore. E il 21 aprile 1992 un amico bussa alla sua porta perché nessuno lo ha visto, l'ha sentito negli ultimi tre giorni e i vicini hanno sentito la televisione accesa continuamente notte e giorno e hanno chiamato la polizia. Quando la porta viene sfondata, Ben Hill è seduto con il capo riverso sulla sua poltrona davanti alla TV accesa. È stato stroncato tre giorni prima da un infarto. Nessuno se n'è accorto perché lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in un isolamento completo, lontano dal quel mondo dorato, soprattutto lontano da quella televisione che gli ha chiuso le porte in faccia. Per parlare di un grande comico, bisogna parlare con un altro grande comico, una persona abituata a far ridere la gente, ma anche a come dire, capire i meccanismi scientifici della risata, perché non basta la simpatia, ci vuole qualcosa in più, quel qualcosa in più che ha il nostro ospite Massimo Boldi. Buongiorno Massimo. Carissimo Enrico, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti, sono molto felice che mi hai chiamato. Avevo bisogno di te perché qui stiamo parlando di Benny Hill e quindi in qualche grande modo... Grande Benny Hill, grandissimo. Ecco, e quindi volevo un parere, diciamo, umano e tecnico da te, cioè quali sono stati secondo te i punti di forza della sua comicità? Di Benny Hill, sì. Di Benny Hill chiaramente è più un comico di, non di battuta, esatto, ma di situazioni. È il comico che poi abbiamo un po' copiato tutti quanti, Certo, è un comico che viene dalla scuola, dalla vecchia scuola di Charlot, di Buster Keaton, cioè di quel teatro, del cinema. Però lui l'aveva portata ai nostri giorni ed è stato un grandissimo successo. Peraltro il Benny Hill Show era entrato in quel grandissimo contenitore di talenti che è stato il drive-in, che anche da noi giocava, non so, sulle scollature di Tini Cansino, su queste cose. Come qui, no, quello l'ho fatto anch'io, sono stato proprio. Te ne hai viste tu di scollature nella vita? Pionieri. Come no, assolutamente, sì sì. Beh, molto divertente. Certo. Però forse drive-in puntava più sulle famiglie, no? Cosa dici? Rispetto sì, a sì, Ben sì, Hill, ma lui era... puntava. Ma guarda, è chiaro che il comico popolare punta soprattutto sul grande pubblico, soprattutto sui giovani, sui ragazzi, i bambini, perché anche se era un po' osè, però sempre mirato al divertimento, a cercare di divertire come era Totò. Certo. Senti, e com'è cambiato, come sta cambiando la comicità oggi? Cioè oggi non può più esistere un nuovo Benny Hill... Perché è più difficile scandalizzare la gente, mi sembra. Guarda, un nuovo Benny Hill l'avevo fatto io, avevo fatto Boldi Hill. Lo so. Sì, l'abbiamo fatto anche parecchi programmi dove all'interno c'erano degli spezzoni di questa cosa. Addirittura nel 1984, con Vittorio Mario Cecchigori e in società con Silvio Berlusconi, avevamo fatto proprio le comiche di Boldi Hill ed è andato in onda nel programma che era Risatissima. Sì, mi ricordo. Il programma dell'84 diretto da Davide Rampelli. Trovare chi oggi potrebbe essere il nuovo Benny Hill, ma è, credo, difficile, molto. È molto difficile. Molto difficile, perché c'è una vis comica e c'è soprattutto una voglia di far divertire senza dire... delle trozzate, parliamoci chiaro. Certo, certo. Perché il problema sono i testi, è un po' come nelle canzoni, no? Magari c'è una bella musica, ma poi c'è un testo che non è accompagnato in modo giusto e di conseguenza viene mezzo e mezzo, viene una cosa fatta così. Non è facile, il giorno d'oggi è cambiata la comicità perché la televisione ha voluto cambiare la comicità. Sì. Cos'è successo? È successo che ci si scopiazza, io cerco di mettermi fuori, ma ci si scopiazza a vicenda e non si riesce a trovare più il tuo stile qual è. Poi nella massa ci sono i fenomeni Zalone che sono dei veri fenomeni, però che sono stati costruiti non in una cantina come la vecchia generazione, certo, come, certo. Come la mia, che ha fatto la vera gavetta, si è costruita in televisione, che non è la stessa cosa. Che non è la stessa cosa, è vero. Non è la stessa cosa, è vero. Hai capito? Massimo, sei stato gentilissimo e... Viva il Milan, no, tu non sei milanista. No, sono un pochino più interista, ma neanche tanto. Vabbè, ma andiamo bene tutte e due, dai, che se ne ciao frega. Massimo. Abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Benny Hill, perfino Charlie Chaplin si è dichiarato un suo ammiratore. Benny Hill ha vissuto una vita piena di colpi d'ala positivi, però la sua passione per il lavoro, diventata un'ossessione, l'ha trasformato in un uomo incapace di crearsi